Le ragioni sono, diciamo, abbastanza semplici, ma vanno avanti da qualche tempo. La nostra presenza sindacale ormai è abbastanza diffusa nei vari centri logistici di Coop, dove attraverso il sistema di appalti e subappalti registriamo condizioni di lavoro, contrattuali, economiche differenziate, nonostante l'unica, diciamo, committenza, e soprattutto inferiori a quelli che sono i livelli contrattuali e le necessità economiche anche imposte dal pesante carovita che stiamo subendo tutti. Oltre a questo c'è la questione del riconoscimento stesso del sindacato, che diversi di questi fornitori, in particolare quelli di AFV e la cooperativa AsterCoop, presenti nei magazzini di Forlì e Cesena, non riconoscono il sindacato né come controparte ai tavoli né, diciamo, con i diritti sindacali, quali quelli di assemblea e di riconoscimento dei delegati, eccetera, eccetera. Quindi sono un motivo di democrazia sindacale, di diritti, di dignità e di salari adeguati. Queste sono le principali motivazioni contenute nella piattaforma rivendicativa, diciamo, unitaria che abbiamo presentato nelle settimane scorse, sulla base del quale volevamo aprire un tavolo con la presenza e il coinvolgimento diretto, appunto, della committenza Coop, al quale ci è stato risposto con una chiusura abbastanza netta. Al centro, come spesso accade, comunque c'è il sistema degli appalti. Assolutamente, assolutamente. In questo caso, tra l'altro, anche molto stratificato. In alcuni magazzini, per esempio quello di Parma, dove mi trovo io in questo momento, addirittura possiamo parlare di veri e propri subappalti, nel senso che la Coop dà in gestione ad un operatore logistico che dà in gestione addirittura a diverse cooperative presenti all'interno dello stesso magazzino. Questo di fatto permette di riprodurre condizioni di ricattabilità, di sottoinquadramento, di differenza e anche di, come dire, messa in competizione tra i lavoratori all'interno addirittura di uno stesso magazzino, quindi di collegare la possibilità di avere un salario pieno e minimo a giornate di lavoro, produttività, eccetera, eccetera. Quindi questo riteniamo che sia molto grave anche a fronte, diciamo, dell'avviso del mostrarsi etico di un soggetto come Coop, che in realtà è un grande colosso della grande distribuzione, Coop Alleanza 3.0 in particolare stiamo parlando, che nel 2021 ha fatturato ben 4 miliardi e mezzo di euro. Capiamo bene che gli utili di questo giro di affari siano, diciamo, dovuti anche alle condizioni misere dei magazzini che oggi appunto hanno incrociato le braccia. Quindi insomma chiamate in causa anche il committente. Assolutamente, assolutamente, lo facciamo tra l'altro all'indomani dell'ennesima scandalo giudiziario che ha coinvolto altri soggetti della logistica come Bartolini e Geodis, che seguono altri operatori che piano piano uno alla volta, diciamo, mostrano quello che è il vero volto degli appalti, che come sappiamo servono a deresponsabilizzare appunto i committenti e allo stesso tempo attraverso anche, insomma, operazioni illegali truffare i lavoratori e anche eventualmente anche lo Stato, come abbiamo letto ieri. Quindi chiamiamo assolutamente in causa Coop. Coop ci ha risposto qualche giorno fa con una riga dicendo che queste questioni non la riguardano, e allora pensiamo che anche oggi i lavoratori, insomma, ai cancelli dicevano, rispondevano: allora oggi non ci riguarda. Guarda, consegnare, preparare le merci per i punti vendita che rimarranno nei magazzini e, insomma, siamo pronti, insomma, ad andare avanti anche rispetto alla giornata di oggi, anche nelle giornate successive, perché è una questione centrale in questo momento.